della notte. Oh Lord, oh, nell'aria della notte. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, oh Lord. Riflessioni di un'anima sensibile nel cuore in una notte chiassosa, ma priva di rumore, si accavallano negli occhi di chi quel giorno ha pianto. Adesso si trova schiacciato sotto una lastra d'amianto, il tossico che prende il sopravvento. Pensieri in armonia ma che si reggono a stento. È questo quello che ora ti gira in testa, da quello che si accetta a ciò che si contesta. Sei tu l'elemento che a priori resta, ma a posteriori quello che paga delle sue gesta. Un caldo intorno a te, ma un freddo tutto dentro, fa sì che lo spazio sia la creazione del tuo mondo, in cui sarà la volta che la tua freccia scocca centro. E becchi con esse il rosso rotondo, intanto e sento la sete di potere che ti annebbia la vista, che ti porterà a non avere testa come Battista. Notte, scappare dalla totale indecisione, scappare dalle cazzate di qualche coglione. Il vento che accarezza le tue labbra chiuse, appagate da questa notte che è la tua giornata chiuse. Nell'aria della notte, oh, nell'aria della notte. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, oh Lord. 24 ore trascorse tra le cazzate, i libri, le parole, questi forse, pensando alla mia vita adesso senza risorse, immerso tra le rose che rimangono spinose. Vado in alto ma rimango nella base, attendo questo momento giusto e me la prendo, ridendo visto che non sento il cuore che mi batte, ormai è troppo lento. Conta fino a 10, amico, conta fino a 100. Gioco a questo gioco dove credo che abbia vinto, non chi rimane vero ma chi sconferma solo vinto. Non resto qui da solo con i tuoi sentimenti, buttati una panchina che ti dico complimenti. Siamo lenti, noi non siamo mica perfetti, identici che identici, immerso nei concetti, come in una strada a fumare nei vicoletti. Meglio essere stronzi nella vita che non essere mai stati schietti. In effetti siamo noi animali ma non siamo degli insetti. Non strisciamo, non cancelliamo, ma quante volte ho detto che sto tempo sembra strano. Questa è la mia mente che ha preso già il suo treno, osservo la mia vita in dormiveglia dietro un vetro. Per quanti errori fatti lo ripeto, mi dispiace ma io non torno indietro, io non torno indietro. Nell'aria della notte, oh, Lord, oh, nell'aria della notte. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, oh Lord. Pensieri congedati dal buio del tuo letto, la coperta calda su di te, ma il tuo cuore scoperto, intento a dire quello che è dentro, con il suo cantare pulsante a tocchi e lento. E lo sento e sento puro lento pianto, il tuo zigomo stanco di far da letto ad un fiume. Il fiume sofferente delle tue lacrime come piume, l'erciume che ti chiude di questa società vestita con un costume. A te rimangono le mie rime, delle macchie sulle macchie del quaderno a righe, invisibili dal fatto che di tutto c'è una fine, specialmente strofinando la tua vita con un guanto di green. E la vita a strati, dicevo, un film della Disney, come quelle strane strutture sulle coste di Sydney. Cerca di viverne ogni strato, lasciando il passato, e comportati come qualcuno che ora si è addormentato. Tupac. Nell'aria della notte, oh, nell'aria della notte. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, oh Lord, I can feel it coming in the air tonight. Nell'aria della notte, oh Lord, oh, nell'aria della notte. Nell'aria della notte.